Pronto? Pronto, Double G, tu? Sì, sono io, dimmi, c'è. Oh, Double G, vada a venire a pigliare, siamo a fare un giro, facciamo un po' di rap. E via. Ah, raga, oh, ma, cioè, io dire, è tardi, sono le 11, dove andiamo, mo? Non fa niente, Double G, ma venimo a nud. Tu stai addossato, a stare. Vabbè, però sto a casa, capisci? Cioè, come, non è che posso venire. Non ti preoccupare, Double G, devi venire a pigliare nud, stiamo quasi a due. E mi piace faticella, capito? Ho capito. Cioè, tra quanto venite? Venimo mo. Hai capito? La bolcina, aspettaci la casa, capito? Venimo più. Cioè no raga, veramente sentite qua a casa. Cioè veramente a casa non vogliono che. Vengo. Bravo, venimo a picchiare, va bene.